Buongiorno a tutti da Antonio Pavolini e benvenuti al 24esimo numero di Conversational, la rubrica di Radio Popolare Roma dedicata alla rivoluzione dei social media. C'era una volta, o forse c'è ancora, il curriculum. Poi sono arrivati Monster e i siti di job hunting, che se non altro hanno avuto il merito di trasformare quella decina di lettere di rifiuto in migliaia di mail di rifiuto. E alla fine siamo entrati nell'era di LinkedIn, di Viadeo e di Xing, servizi che hanno scosso dalle basi le tradizionali catene di selezione del personale. Ma come si rinnova il ruolo dei cacciatori di teste con i nuovi social network professionali? E come cambia il modo di cercare lavoro? Ne parliamo tra pochissimo. Senti, che lavoro me ne ero dimenticato? Che lavoro fai? Beh, mi interesso di molte cose. Cinema, teatro, fotografia, musica, leggo. E concretamente? Non so cosa vuoi dire. Non sai, cioè, che lavoro fai? Nulla di preciso. Beh, come campi? Ma te l'ho detto, giro, vedo gente, mi muovo, conosco, faccio delle cose. E l'affitto? Vivo con mio fratello e non lo pago. Vabbè, dico i vestiti. Un amico per esempio che va a Londra, gli dico di portarmi delle cose, degli abiti. Vabbè, il mangiare. Mi ospitano molto spesso. Questa sigaretta qui. Ho incontrato un amico stamattina e mi ha dato due pacchetti di questa. Ciao. Come ciao? Vai via? No, sono contenta di stare qui, vederti. Senti, lo sai che avevo pensato? Perché non ci andiamo una settimana in campagna? Potremmo, secondo me si potrebbe stare bene. Allora, era abbastanza difficile non partire in una puntata dedicata a come cambia il modo di cercare lavoro e come anche cercare i candidati ideali per un lavoro senza citare Nanni Moretti e questo famoso brano di un suo film che mi sembra però ancora molto molto attuale. Vorrei chiederlo intanto al primo ospite di oggi, che è Roberto Previteri. Ciao Roberto. Ciao Antonio. Allora Roberto, anche oggi c'è un sacco di gente che se gli chiedi che lavoro fai ti risponde faccio cose, vedo gente, e te lo chiedo perché, attenzione, tu sei amministratore delegato di Progman, che insomma è una delle aziende che si occupano di human resource. Esattamente qual è il tuo mestiere? Il mio mestiere è esattamente quello di selezionare delle risorse molto specifiche per le aziende, nel senso che il nostro mercato, il mercato delle dunting, è diventato un mercato molto selettivo, per cui quando le aziende si rivolgono a noi hanno bisogno di due cose fondamentalmente: da una parte di consulenza e dall'altra parte di trovare delle persone molto specializzate o molto indirizzate in un determinato luogo, in un determinato settore di business o in una determinata attività. Ecco, insomma, questa risposta non è tanto inattuale, cioè ancora oggi ci sono persone che hanno difficoltà a descrivere quello che fanno e come si procacciano da vivere. Assolutamente, però devo dire che per quanto ci riguarda le persone che di solito vediamo hanno un'idea tendenzialmente molto più chiara del tipo di attività che stanno svolgendo, ma soprattutto di quello che vorrebbero svolgere. E questo è un po', se posso dire, anche la discriminante che fa il colloquio. Nel senso che spesso e volentieri il candidato o la persona che può ambire a un ruolo è una persona che ha le idee chiare in testa su quello che vuole andare a fare e perché quello potrebbe essere un lavoro o un'azienda, un progetto, perché oggi si parla molto più spesso di progetti, non evidentemente in ambiti contrattuali e lavoristici, ma proprio in ambiti di progettualità lavorativa. Ripeto, il progetto che l'azienda propone, che il candidato sposa. Questo è Quindi il. insomma non sono ferri vecchi né il curriculum né soprattutto il colloquio, questo momento di selezione face to face, eccetera, esistono ancora nonostante tutti gli strumenti di cui parleremo in questa trasmissione di oggi. Assolutamente sì, perché io devo dire che il nostro mestiere è quello di più difficile, se uno vuole. È quello di cercare di capire se una persona fitta, come dicono gli anglosassoni, è coerente, è consistente, è adatto per un determinato ambiente o ambiente organizzativo. Perché non Quanto tutte le persone sono adatte a tutti gli ambienti, e questa è la cosa più difficile da poter identificare, al di là delle skill professionali insomma, delle professionalità maturate nell'ambito della loro vita lavorativa. Ora guarda, ti chiedo una cosa, perché tutte le volte che mi è capitato di incontrare qualcuno che lavora in ambito human resource, anche all'interno delle aziende, non solo nel mondo degli headhunter, spesso sono o laureati, per esempio in psicologia, ci sono molte persone che conoscono anche gli ambiti verticali, i mercati verticali delle aziende dove poi finiscono per lavorare, eccetera. Adesso è cambiato qualcosa anche nella preparazione professionale dell'headhunter? Cioè, oppure comunque esiste un modo di formare questa figura? Ma io devo essere sincero, ogni azienda e ogni azienda di human resources ha il suo approccio, nel senso che esistono gli psicologi del lavoro, esistono gli assessor, quindi quelli che fanno la valutazione attitudinale, esiste tutto, diciamo così. Quello che personalmente come azienda che dirigo quello che ci contraddistingue è quello di una competenza nell'ambito dell'organizzazione, cioè mi spiego meglio, la capacità nostra di leggere un ambiente organizzativo, non tanto perché lo psicologo ha fatto tanti anni in azienda, per cui ha un po' levato i panni dello psicologo, oppure ha delle tare di un certo tipo. Noi siamo molto, molto umili nel nostro, se posso permettermi, nel nostro mestiere. Tendenzialmente cerchiamo di riuscire a identificare il candidato giusto per quel tipo di ambiente, oltre ovviamente che per la professionalità che ha maturato fino a quel momento. Diciamo che di persone nell'ambito dell'HR ne ho incontrate tante, e devo essere sincero, quelle che mi hanno dato più affidamento nell'ambito della nostra attività erano gente che ha fatto organizzazione, quindi quando gente che aveva fatto riorganizzazione di azienda, aveva fatto processi, aveva fatto questo tipo di attività, per il semplice motivo che è in grado di distinguere, di parlare con tutti i livelli organizzativi, di identificare tutti i diversi livelli professionali. Ha fatto progetti interfunzionali dalle vendite fino al recupero crediti e quindi è in grado di sviscerare possiamo dire, la cultura dell'azienda cliente e allo stesso tempo attraverso gli strumenti, perché utilizziamo strumenti di assessment forniti da psicologi, attraverso gli strumenti di assessment valutare le caratteristiche attuali della persona. E questo mix è quello che nel tempo a noi ha dato i maggiori risultati in termini proprio di risorse impiegate. Ecco, ti chiedo, se tu avessi ascoltato, probabilmente hai avuto la fortuna di non farlo, tutte le puntate di Conversation che abbiamo mandato in onda fino adesso, molto spesso alla sbarra, come grandi rallentatori dell'innovazione, sono figurati certi processi organizzativi di certe aziende, come se esistesse un mondo, diciamo, di creatività over the top che si agita fuori, lontano dagli ambiti aziendali, che non riesce a essere messo a valore nei luoghi magari dove ci sono gli asset infrastrutturali, dove potrebbero dare dei frutti, a causa di una serie di tare, di pesi, di bastoni fra le ruote che hanno molto a che fare proprio con le logiche organizzative tradizionali. Oggi, chi si occupa di organizzazione aziendale sta in qualche modo aiutando le aziende a mettersi al passo dell'ecosistema della creatività, dell'innovazione che si trova al di fuori dei confini aziendali? Questa è una domanda molto, molto difficile a cui rispondere in termini tipo generale, nel senso che io rivolgerei la domanda da un altro punto di vista. Tanto più l'azienda è orientata al mercato e quindi ha un mercato a cui rispondere, e quindi è un mercato competitivo, cioè tanto più è l'ambiente a cui si rivolge è competitivo, tanto più lo deve fare per necessità. Tanto quindi diciamo la leva è il mercato e non è una certa evoluzione culturale come... Ma assolutamente no, le organizzazioni sono come gli uomini, sono spinte dal bisogno, certo. Quindi nel momento in cui c'è un bisogno di innovazione innovano, se non c'è bisogno di innovazione si aprono delle comfort zone, certo. E su cui le persone così come le organizzazioni stanno perché gli fa bene così, certo. Vivono bene così eccetera eccetera insomma. Va bene, forse un bel bagno di umiltà anche per molti fustigatori aziendali. Adesso però entriamo nel vivo della trasmissione, perché parliamo appunto dell'effetto di questi nuovi strumenti che sono soprattutto i social network professionali che cominciano a offrire veramente servizi non vorrei chiamare di ad hunting, ma di qualcosa che è molto, insomma, gli somiglia. Sentiamo adesso l'opinione di Cristina Sottotetti, che è intervenuta recentemente a una Social Media Week a Milano proprio su questo tema. Invece per quanto riguarda un discorso però di personal branding vorrei spendere qualche parola in più. Prego. È vero che il personal branding detto così magari non è bellissimo, però alla fine lo dobbiamo accettare. Noi facciamo esattamente questo. Come quando noi scriviamo un CV, un cartaceo, comunque ci presentiamo. E lo stesso lo facciamo quando scegliamo la nostra foto da mettere sul nostro profilo piuttosto che quello che scriviamo. Ricordiamoci di essere, se posso permettermi qualche consiglio, perché io tutti i giorni tengo aperto LinkedIn e Facebook, piuttosto che Viadeo, piuttosto che Twitter, quindi li uso tutti per controllare, passatemi il termine, ma è così, il candidato che poi andrò ad incontrare. E quindi la coerenza, quindi mi raccomando di verificare che su tutti i social network dove decidete di essere ci sia una coerenza di dati, perché sennò è ovvio che insomma, qualche cosa il selezionatore dice ma non c'è. E poi di scegliere accuratamente, cioè, non esiste mai qualcosa di giusto, qualcosa di sbagliato, ma esiste che cosa voglio comunicare. Banalmente, se posso dire un piccolo aneddoto personale, mi sono iscritta proprio, dico Facebook, perché quello forse che si usa di meno professionalmente, ma anche questo viene visto. Mi sono iscritta veramente all'inizio, proprio appena arrivata in Italia. Mi sono accorta, riguardando i miei gruppi, che mi ero iscritta a uno di quelli dove ancora 5 minuti e arrivo, ma sono ancora tipo in pigiama, una cosa del genere, perché mi faceva ridere, mi piaceva il titolo. In realtà io sono una persona puntualissima. Cioè, se io mi sono accorta, cioè se la persona entra e guarda le mie pagine, che peraltro ho scoperto anch'io, perché ogni tanto continuo a verificare bene i livelli di sicurezza, cosa vedono le altre persone, perché questo è un lavoro quotidiano veramente che va fatto con molta attenzione, quindi nulla va come dire preso con leggerezza, proprio perché diventiamo pubblici, molto pubblici. E mi sono accorta e ho detto, cazzo, se una persona, un selezionatore vede questa cosa, pensa che io sono sempre in ritardo, cosa invece che non è assolutamente vero, cioè sono anche sempre in anticipo. Questo esempio l'ho fatto per far capire che non esiste nulla di giusto o di sbagliato, bisogna poi dire scegliere che cosa comunicare e nello stesso tempo prendere coscienza del fatto che non si può più non esserci. Anche il discorso di prima, online o offline, scusami, non voglio essere provocatoria, è superato, cioè non esiste neanche più, cioè non mi pongo neanche un problema in come di numeri, non esiste più, adesso ci devi per forza essere, perché anch'io che sono selezionatore, se non ti trovo mi dai fastidio. Allora, abbiamo sentito la voce di un ad hunter particolarmente lanciato su Google, sui principali strumenti emergenti, non esattamente una conservatrice, abbiamo detto. Nel frattempo dovremmo avere in collegamento Vincenzo Cosenza. Ciao Vincenzo! Ciao, ciao a tutti. Vincenzo, che lo ripeto per chi non lo conoscesse dalle puntate precedenti in cui già intervenne a suo tempo, è responsabile di Digital PR Italia, che è, diciamo così, un'agenzia specializzata proprio nell'uso aziendale dei social media, ma è anche un opinionista, un giornalista, perché hai scritto proprio adesso sul Sole 24 Ore, uscito credo una settimana fa, un interessante articolo proprio che fotografa la situazione di LinkedIn, il principale social network professionale che esiste in questo momento nel mondo, in cui insomma racconti che ormai è diventato un fenomeno di dimensioni ragguardevoli, giusto Vincenzo? Beh sì, ha raggiunto proprio da qualche settimana i 100 milioni di utenti registrati nel mondo, in Italia siamo a 1.700.000, quindi è sicuramente un social network da tener presente dopo Facebook, quindi in una sua nicchia ben precisa sta posizionandosi molto bene. Ma non ti sembra un po' sbilanciato, anche guardando un po' i numeri, no? Nel mercato dell'high tech, nel mercato del marketing, rispetto a tante professioni che proprio per il fatto di avere una minore alfabetizzazione informatica sono meno portate comunque le figure a utilizzare strumenti di questo tipo? Sì, sì, effettivamente c'è questo sbilanciamento sul tech, e me lo spiego fondamentalmente con una fase iniziale in cui soprattutto coloro che si occupano di tecnologia l'hanno iniziato a conoscere, quindi diciamo gli early adopter in ogni nazione la fanno un po' da padrone, manca forse sicuramente quella penetrazione verso dei settori meno tecnologici, sicuramente probabilmente le cose cambieranno, probabilmente ciò è dovuto anche, andrà anche a svilupparsi di pari passo con come dire una maggiore cultura digitale da parte della popolazione che è meno avvezza alle tecnologie. Ecco Roberto, io ti vedevo un pochino scettico prima quando abbiamo ascoltato la dottoressa Sottotetti dire che ormai questi strumenti sono assolutamente essenziali e fondamentali, sono un passaggio obbligato. Hai qualche commento da fare? Sì, diciamo che l'ho trovato un pochino estremista per la mia esperienza relativamente per esempio al discorso di curare l'immagine in modo giornaliero su ogni social network. Sì, il famoso personal branding. Quanto si interseca col lavoro dell'headhunter? Guardate, più che intersecarci col lavoro dell'headhunter è che se uno fa questo non fa il suo mestiere, nel senso che non lavora, perché poi questo porta via una valanga di tempo. E poi per quanto ci riguarda non si interseca, nel senso che un profilo, devo essere sincero, LinkedIn è l'unico social network che su cui noi lavoriamo, però LinkedIn ci dà degli spunti se quella persona ha avuto delle esperienze piuttosto che ha lavorato in determinata azienda o ambiente o conosce determinati di mercati. Il contatto visivo, il contatto personale, l'intervista, il colloquio di lavoro, la condivisione delle esperienze, perché poi alla fine dei conti il colloquio è una condivisione di esperienze, è l'unico modo per capire se quella persona può essere adatta in un determinato ambiente o in un altro ambiente, o meglio nell'ambiente del cliente che ti sta commissionando la ricerca. Quindi questa esasperazione della ricerca del personal branding mi sembra un onestamente, il mio piccolo mi sembra un po' paranoica, ecco, questo un po'. Guarda, io sono abbastanza d'accordo con te, nel senso che probabilmente il personal branding è già una piccola demo live di un certo tipo di mestiere, è molto molto ristretto, dove chiaramente se una persona deve fare marketing, per esempio, è un bene far vedere che sei un bravo web marketer di te stesso e fin lì ci possiamo anche arrivare. Però il discorso comincia a complicarsi quando parliamo del fatto che il web è comunque, per tanti creativi, adesso limitiamoci ai creativi, una piattaforma dove esporre un portafoglio delle proprie capacità. Per esempio, se qualcuno fa il grafico o il fotografo, beh, è chiaro che a quel punto il web è fondamentale. Cioè, se tu sei un grafico e hai un sito web che fa pena, dal punto di vista grafico questo già rappresenta un po' un ostacolo. Sì, è vero, questo sono d'accordo con te, però questo vale un po', sono d'accordo con te, dipende un po' la persona, Spesso e volentieri dipende anche molto dai clienti che ha, perché spesso e volentieri i clienti parlano per lui. Cioè, mi spiego meglio, se uno dedica molta attività nel lavoro che fa, nello sviluppo della propria clientela e nel branding nei confronti dei clienti... Vuol dire che non ce li ha. esattamente, l'ultima riga in fondo a destra è fondamentalmente però questa. Tu stai parlando di un mestiere che è a cavallo tra il creativo e l'account. Adesso voglio chiedere a Vincenzo, perché non è detto che il creativo debba anche essere quello che si procaccia i clienti. No, te lo dico perché tu sei manager di un'agenzia, sei account, ma chiaramente il tuo è anche un lavoro creativo e non solo di ricerca. Sì, no, infatti spesso è proprio così, cioè il creativo cura poco se stesso, probabilmente però probabilmente nel vecchio mondo, diciamo così, mentre con la rete io noto che sempre più, visto che questi strumenti tecnologici sono ormai alla portata di tutti, i creativi iniziano a utilizzarli anche bene, anche solo per veramente soltanto per caricare il proprio lavoro in rete senza troppi ghirigori, voglio dire. Però si nota sempre più l'utilizzo della rete come palcoscenico, e io sono anche il primo a farlo, non essendo neanche un creativo, ma comunque le mie ricerche per prima le pubblico in rete, quindi ecco, ma lo scopo, ascolta Vincenzo, tu pubblichi queste ricerche, poi diventano anche delle news angle, quindi ci fai degli articoli che finiscono anche su testate prestigiose come il Sole 24 Ore. Però l'attività di ricerca di digital PR, che cosa dovrebbe dimostrare per esempio ai vostri clienti? Che bisogna fare investimenti su LinkedIn? Cioè, ci sono ulteriori finalità? Allora, le ricerche di digital PR hanno soprattutto l'obiettivo di posizionare digital PR come agenzia di fatto ha una testa e che propone comunque... Che lavora su cose che conosce, che è già molto. Lavora su cose che conosce e cerca anche di ampliare il proprio spazio di conoscenza, non va a traino della conoscenza degli altri. Quindi non è una o delle mode, peggio ancora. Non è una mera agenzia di esecuzione, ma è un'agenzia che, come dicono gli americani, è un po' on the edge, comunque ha questa aspirazione. Va bene. Allora, noi ti ringraziamo Vincenzo per il tuo, come sempre, prezioso contributo. Io ricordo ancora una volta il tuo blog, dove troviamo anche tutti gli aggiornamenti su queste vostre ricerche, sulle tue attività, sui tuoi speech, che è www.vincos.it. Ciao Vincenzo. Grazie a voi, ciao. Ciao, siamo con Sabrina Mossenta di Viadeo al termine di una conferenza qui alla Social Media Week che si intitolava Job Go Social. Da te tre consigli su che cosa fare. Certo, è importante oggi essere presenti non solamente in internet ma anche nell'ambito dei social network, in particolare professionali, perché questo dà la possibilità allo studente laureato o laureando alla ricerca di un lavoro di rendersi visibile alle aziende e ai recruiters. In particolare il curriculum è un curriculum online, vero e proprio, che il recruiter va a visionare nel momento in cui lo studente invia un curriculum cartaceo anche per una posizione aperta. Quindi non è solamente un luogo di visibilità, ma anche un luogo dove il recruiter va a verificare che le informazioni ricevute siano coerenti. Un errore frequente è pensare che dalla pubblicazione del proprio profilo professionale si possa subito trovare il lavoro. Diciamo che la proposizione di un lavoro è un lavoro continuativo, quindi già nel momento in cui si esce da un'università con un diploma, bisognerebbe creare un profilo, creare delle referenze chiedendo riferimento agli ex professori piuttosto che ai colleghi d'università e poi mantenere attivo questo profilo, anche perché questo consente di salire come visibilità nell'ambito dei motori di ricerca. Senti, in tutto questo le specificità di Viadeo? Viadeo è un social network local, questo consente di avere un confine molto ampio a livello mondiale, ma anche una buona visibilità nell'ambito locale. Perfetto, grazie mille, buon lavoro. A voi, grazie. Allora, se prima abbiamo sentito un headhunter particolarmente ottimista sull'uso di questi strumenti, stavolta forse era anche più giustificato, perché chi parlava era la dottoressa Mossenta, che proprio è responsabile di Viadeo e chiaramente stava raccontando le caratteristiche distintive di quest'altro social network professionale che fa concorrenza a Xing e a LinkedIn. più o meno nella stessa area di mercato. Abbiamo in collegamento, dovremmo avere in collegamento Luca Lagna. Ciao Luca. Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti. Luca Lagna, che conosciamo soprattutto come esperto in generale di quello che succede nel mondo dei social media, lui è soprattutto un esperto di user interaction design. Ma la prima cosa che gli vorrei chiedere è questa. Abbiamo visto che i social network verticali, specializzati in un certo ambito, in questo caso parliamo di quelli professionali, spesso alla fine sì, c'è un momento di competizione tra due o tre social network e poi c'è spazio per uno solo. Abbiamo sentito i numeri di LinkedIn abbastanza impressionanti poco fa. LinkedIn sembra aver superato il tipping point, cioè tutti devono andare lì. Che fine fanno secondo te Xing e Viadeo? Ma di solito in questi casi, come è accaduto in passato per qualsiasi guerra, no? Mi ricordo la famosa guerra dei browser, ma da lì in poi, insomma, gli strumenti digitali. E probabilmente... Pensiamo a Skype, per esempio, nel mondo esatto. Del voice over IP. No, e anche nei social media naturalmente l'eccezione non c'è, non credo ci sia. Quindi in realtà sì, si tende a concentrarsi e quindi alla fine a posizionarsi soltanto su un solo strumento, se non altro anche per semplicità e probabilmente anche per semplicità di comunicazione, cioè all'esterno, per esempio quando è iniziato a esplodere Facebook c'erano tantissimi altri strumenti in giro e poi piano piano lui li sta, diciamo, no, mangiando in ogni parte del mondo. Così è la stessa cosa anche per un ambito specifico come quello del personal branding e del lavoro online. Ecco, a Roberto invece vorrei chiedere un'altra cosa. Abbiamo sentito poco fa la Cristina Mossenta dire: è importante comunque che il profilo sul social network professionale sia molto coerente col curriculum, perché una delle prime cose che l'ad hunter potrebbe fare è vedere se ci sono versioni diverse, nel qual caso significherebbe che chi scrive il curriculum o il profilo è abbastanza lasco nella coerenza dei dati e quindi poco affidabile. Anche questo è un mito? È tanto importante oppure no? Ma dipende dalla seniority della persona fondamentalmente, cioè da che tipo di attività ha svolto e svolge la persona, nel senso che fondamentalmente, facevo il nostro esempio, noi lavoriamo, vediamo soltanto LinkedIn, non abbiamo né il tempo né la voglia di andare a vedere altri social network per il semplice motivo che su Facebook ognuno fa quello che gli pare, è fuori contesto, mettiamolo in questo modo, insomma, come molti altri social network. Come stavo dicendo prima, la verità vera è che il curriculum che è sul social network, noi utilizziamo LinkedIn, ci dà delle indicazioni innanzitutto sulla coerenza professionale, e questo è giusto, ma soprattutto sul tipo di esperienze che il candidato ha fatto, e lo utilizziamo non per i laureati nel modo più assoluto, dove ci sono degli altri strumenti molto più efficaci, cioè degli assessment, dei group assessment, questo è la, cioè, vedete le dinamiche di gruppo, assolutamente la leadership, insomma, questo vecchio, il sano vecchio, sì. Perché poi alla fine dei giochi uno va a lavorare in un ambiente isolato, per cui lavora da casa, però poi alla fine, se invece questo non è, va a lavorare in un'organizzazione, il social network non ti aiuta a capire se questo sa lavorare in un'organizzazione. Certo. Parliamo di due cose diverse e quindi valgono altri tipi di parametri, eccetera eccetera eccetera. Però LinkedIn è fondamentalmente quello che usiamo, ma ci serve come spunto per capire se il candidato ha fatto alcune esperienze e che tipo di coerenza hanno queste esperienze tra di loro. E a queste diamo un valore relativo, perché poi quando ha fatto delle esperienze che sono un minimum requirement rispetto alle specifiche che ci ha dato il cliente, andiamo a vedere la persona, perché certo, spesso e volentieri ci capita di persone che vanno bene al 100% in termini di specifiche, ma poi capiamo insieme al cliente che non entrano dentro quel tipo di organizzazione, mentre magari altre che hanno al 50% o al 30% queste caratteristiche, però capiamo che c'è del potenziale, ma del potenziale non in termini generali, ma potenziale per quel tipo di ambiente. Ecco, un inserto che avrei voluto mandare in onda, ma per un problema tecnico non ce l'abbiamo fatta, era quello di Stefano Saladino, che sollevava un altro tema ancora. Il tema più generale della gestione, della consapevolezza della propria della gestione, del governo della propria identità in rete, perché è vero, naturalmente una cosa è il profilo, cioè come veramente uno si vuole presentare nel caso in cui qualcuno che ha un lavoro da offrire vi si imbatta, ok, questo è un conto. Poi però un'altra cosa sono tutte le tracce che noi lasciamo della nostra vita, ormai estremamente pervasive, sui nostri stili di vita, che sono le cose che tipicamente in una catena di selezione il candidato vuole occultare. Allora, Saladino diceva, non verrà mai comunque un headhunter a romperti le scatole in un pub mentre ti stai divertendo, stai bevendo la quarta birra, e quindi tutto sommato tutto questo allarme non c'è. Voglio sentire però prima il punto di vista di Luca. Sul tema di quanto dobbiamo stare attenti a raccontare le nostre cose in generale su internet, in una logica di selezione, del fatto che qualcuno un giorno potrebbe dire: "Vada, Pavolini si è fatto ritrarre con un berretto a fiori e nella sua foto sul profilo di Facebook si è vestito come Kermit il Ranocchio, e quindi non è una persona seria." Il tema dell'identità online è un tema molto, molto centrale per quanto riguarda le tecnologie digitali, ed è anche molto complesso ad oggi, anche se poi si tende a semplificarlo, e a maggior ragione per la reputazione. Probabilmente il discorso, naturalmente, che è quello del lavoro, è molto legato anche a quello della reputazione. Però bisogna dire che, come probabilmente avete già detto, non vale la pena barare, ecco. E comunque non porta a nessun risultato, come non lo porta all'esterno, diciamo, in una situazione, scusate, non digitale, e naturalmente non lo porta neanche nel mondo online. Quindi posto di saper usare gli strumenti nella maniera corretta, voglio dire, per esempio Twitter, saperlo usare in quanto Twitter, Facebook in quanto Facebook, e LinkedIn, che è uno strumento più adeguato per questioni più coerenti col lavoro, bisogna cercare di essere se stessi, ovviamente in una maniera adeguata al contesto e anche agli altri. Quindi probabilmente Facebook è effettivamente un mondo più frivolo, in cui si può tendere di più a questi atteggiamenti anche che descrivevi, e che invece spesso è stato, se ti ricordi, oggetto anche di polemica, di licenziamenti, di capi che andavano a leggere cosa scrivi tu su Facebook. Ecco, dicevo l'altro giorno. A Roberto vorrei chiedere: ma se un capo licenzia qualcuno per quello che ha scritto su Facebook, tu questo comportamento dal punto di vista delle human resource come lo qualifichi? Innanzitutto dipende che cosa ha scritto, però tendenzialmente in linea generale dipende che cosa ha scritto innanzitutto, ma poi lo direi è una questione di soglia, quindi mi stai dicendo quello sì, ma non è tanto di una questione di soglia da una parte, ma soprattutto è illegale dall'altra, da quello che posso capire io, nel senso che non puoi licenziare qualcuno per Facebook. Spesso queste cose magari vengono usate strumentalmente, ma perché a monte già si volevano adottare determinati tipi di azioni. Questa è la mia piccola esperienza, perché se una persona, diciamo così, è ben voluta all'interno dell'azienda, ha portato risultati, oppure è una persona creduta generalmente valida all'interno dell'azienda, anche il suo capo che va a vedere su Facebook ha scritto le cose non consone, non può fare più di tanto, perché poi le performance o la stima all'interno dell'azienda è tale per cui non si può un po' fare più di tanto. Ecco, tu mi dicevi che usate comunque LinkedIn abbastanza. Su LinkedIn, al di là dei profili e dei network dei singoli candidati che potete andare a vedere, che secondo me anche quelli sono importanti, ci sono i gruppi professionali, divisi per competenze verticali, soprattutto in ambito, per esempio, tecnologico, ce ne sono anche troppi forse, eccetera. Molti aziendali, esatto, e lì si sviluppano delle discussioni. Entrano anche queste discussioni in cui in qualche modo c'è un piccolo marketplace, esibizione delle competenze, nei vostri ragionamenti, oppure è semplicemente che LinkedIn prova a essere un social network professionale dove si parla di queste cose, punto? Devo essere sincero, non abbiamo il tempo. Benissimo. Quindi se non avete il tempo significa che per voi non è business critico. Devo essere sincero, quando noi facciamo una selezione, il più delle volte andiamo a chiedere delle referenze, o abbiamo delle conoscenze in comune, nel senso che spesso e volentieri abbiamo delle conoscenze in comune nel mondo aziendale? Primo, in secondis andiamo, quando questo non accade, andiamo a chiedere proprio la persona con chi ha lavorato e andiamo a testare con chi ha lavorato alcuni punti specifici che noi riteniamo molto importanti, che abbiamo rilevato nelle interviste, che sono vitali per la selezione, e non c'è nessun social network, nessun tipo di attività online sul personal branding che ti possa dare questo tipo di indicazione. Cioè, io mi fido molto di più di un'opinione su una mia domanda data da un suo ex superiore rispetto di verifica, evidentemente, certo, perché io già ho una risposta, però voglio capire un attimo, rispetto a qualsiasi social network che informazione che posso trovare su qualsiasi social network, perché poi torno a ripetere, quella è una persona che lavora in un'organizzazione, deve rapportarsi con le persone, ha fatto delle performance, c'è una storia, eccetera eccetera. Perfetto, non potevi essere più chiaro. Allora, noi ti ringraziamo tantissimo, Luca, per il tuo intervento. Ricordo ancora il tuo blog, che è www.stilografico.com. Ringraziamo anche Roberto, naturalmente, amministratore delegato, lo ricordo, di Progman Human Resources. Il sito di questa società è www.progman-di-meno, quindi hyphen, hrhotelroma.it. Benissimo, beh, io credo oggi, avendo fatto vedere a Roberto che passo molto tempo dietro una trasmissione radiofonica, di non essere più granché nelle sue grazie nell'eventuale prossima selezione del personale, perché evidentemente non ho molto tempo per lavorare, ma scherzi a parte, tutte le puntate di Conversational si possono scaricare dal nostro blog, che è www.conversational.it. Ringrazio tutti per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima settimana.